Fulminati in azienda. Ascolta, Schedule, in questa azienda voi delle risorse umane mi dovete aiutare a licenziare almeno una persona alla settimana, a partire da oggi. Come licenziare? Una alla settimana? Sì. Ma sono mesi che parli della ripresina, della luce in fondo al tunnel, della speranza, e adesso tutto d'un colpo di nuovo l'austerity? No, appunto, l'hai detto tu, è una ripresina ed è ina perché i numeri non mi sono ancora favorevoli. E allora, uno alla settimana fa i bagagli e mi riduce i costi del personale. Oh. Sì, ma come facciamo a decidere chi dico? E poi licenziare ha un effetto demotivante, no, Marco. Intanto stai calma che mi innervosisci. A. B. Dobbiamo eliminare gente, ma in un'atmosfera allegra, positiva, motivante, hai ragione. No, ma dove lo trovi un modo di eliminare personale così giocoso? Ma dire. Brava, l'hai detto, brava Schedula, un giuoco, come direbbe la Font, un giuoco. Sai cosa facciamo? Facciamo anche noi un bel reality show, lo mandiamo in onda sulla TV aziendale e saranno i colleghi stessi a nominarsi e ad eliminarsi tra di loro. No, no, il Grande Fratello in azienda no. Ma no, Schedula, stai tranquilla, mica in azienda lo facciamo. Tutti sull'isola e chi non resiste torna a casa, a nuoto. Carissimi amici spettatori, benvenuti tutti al nuovo reality, l'isola dei bramosi, perché tutti bramano lavorare nella nostra azienda, ma ogni settimana uno dei dipendenti sarà eliminato dai colleghi stessi, non con un licenziamento tradizionale, ma in base ad una innovativa nomination. Vediamo in diretta cosa sta succedendo sull'isola, ci colleghiamo, ecco, sentiamo cosa sta dicendo in questo momento Marco sul pezzo. Ecco, e quindi allora ringraziate il vostro direttore generale che ha deciso di offrirvi questo challenge, come si direbbe. Al termine del gioco resteranno sull'isola solo i migliori. Ci mancava solo l'esperimento darwiniano. Scusate, la prima cosa da fare è sicuramente la mappa dei ruoli e delle competenze, varrà una job description del raccoglitore di cocchi, del guardiano del fuoco. Basta, Schedula, basta. Voi del personale non cominciate con le vostre cose, per favore, eh? Ognuno avrà il ruolo che crede. L'importante è che quell'angolo in fondo all'isola, quello con la palma, sì, quello là, è mio, perché il direttore generale deve avere la sua pianta di rappresentanza anche qui. No, ma scusa, allora anch'io voglio un angolo glamour dell'isola, per esempio quello con gli arbusti fioriti lì che avevo individuato. Scusa tanto, Marta, ma quell'area centrale è quella di rappresentanza e quindi spetta a noi delle relazioni istituzionali. No, scusa, Marco, allora se la porta prende quell'area, allora io voglio tutta la spiaggia dei coralli rosa, quella laggiù. Basta un po', non potevo venire sull'isola e riprodurre due stesse abitudini che avevo in azienda. E che è sta cosa? E invece sì, caro il mio Centri, invece sì. Infatti la domanda è: chi sarà il middle manager responsabile di tutte le operazioni di raccolta del cocco, arbusti per fare il fuoco, pesca dello squalo bianco, costruzione delle capanne? Fammi indovinare. Dai. Abacco, ma non è che hai fatto pure un master sulla costruzione delle palafitte? Cari spettatori, va ora in onda la sintesi delle nomination di questa prima settimana. Ecco, sì, da responsabile delle risorse umane mi trovo costretta a nominare Marco sul pezzo, perché in una situazione così complessa avrebbe dovuto esprimere una leadership più autorevole e qui si è scatenata invece la rivolta, voglio dire, una cosa... Sul pezzo, da sempre a capo da accordata a me sfavorevole, e così colgo l'occasione per nominarlo e mandarlo a casa. Non so se posso, perché mi sono solo uno stegista, eh. Però secondo me dovessi tornare a casa e il direttor sul pezzo, perché non fa niente, non gli tira su neanche una noce de cocco. Marco deve tornare a casa, io nomino. Non si può venire sull'isola e come se niente fosse scaricare tutto il lavoro su de me come sempre, e c'ho l'ernia, iadale. La mia nomination? Marco. Perché non tiene conto del pubblico. Il gioco funziona se anche l'ultimo stagista ha la possibilità di diventare leader sull'isola. Se no, alla fine, il leader è sempre lui. Ma che figura ci facciamo con il pubblico da casa? E le mie nomination? Io nomino tutti. Sì, tutti quelli che sono qui, tranne me naturalmente, perché l'isola è bella, ma da soli è meglio. FCS, finalmente ci siamo. Torniamo in diretta, ho qui la busta con il nome del primo nominato. Ecco, apriamo la busta. Non è possibile, è una cosa incredibile. Tutti hanno nominato Marco sul pezzo. E Marco, che cosa ne pensi? Uè, ma siamo impazziti? Ma io vi porto sull'isola, vi faccio fare un'esperienza unica nella vostra vita e voi mi nominate a me? dottor Laga ragione. Una isola senza direttore generale può esistere solo all'isola dei famosi, ma in azienda dove più che famosi se tutti bramosi, che vuol che comandi l'imperatore. Appunto, Paco, appunto. Queste rumination sono tutte annullate. Stop, si ripassa dal via e domani voglio vedere chi ha il coraggio di nominare il direttore generale. Amici ascoltatori, per oggi nessun dipendente dell'azienda è stato licenziato e nominato. A domani. Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z2O1T